8:08 minuti di questo mercoledì 19 luglio, oggi da solo in conduzione, ma io sono certo che in co-conduzione al 333-180-9494 sarò in buona compagnia per quanto riguarda non solo la risposta al quiz, ma anche per avere stimoli, suggerimenti che potremmo scambiare a proposito di letteratura e buone letture. Ritorna Iperborea, oggi è protagonista. Ho già i due libri per portare a conclusione il Voltiamo Pagina, la novità di questa settimana e la novità della prossima. Intanto, visto che ho aperto il dialogo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, una comunicazione di servizio importante. Andrea, sei all'ascolto, il super campione del Voltiamo Pagina. Bene, allora ti posso dire che il libro che tu hai vinto la scorsa puntata sarà disponibile da domani pomeriggio alla libreria Ubic di via Irnerio 27, ovviamente a Bologna. L'ultimo che ha presentato Silvia è il fratello del famoso Jack di Barbara Trepido. Ti aspetterà da domani pomeriggio alla libreria Ubic, che ringrazio per l'esperienza di collaborazione nella stagione 2022-2023 con la rubrica letteraria del Voltiamo Pagina dei 103.1. E anche questo lavoro è disponibile. Ringrazio Laura che mi ha dato ottimi consigli, fra l'altro. Cioè, può capitare che abbia intenzione ben chiara, come ad esempio quello della prossima settimana, che è un gigante per me, per il mio modo di vedere, insomma, e di gusto per la letteratura, un gigante della letteratura inglese. Non svelo e non anticipo nulla, sarà il protagonista della prossima puntata. Per quest'oggi invece con Iperborea conosceremo Niviaq Corneliussen. Siamo in Groenlandia e il quiz avrà a che fare con la Groenlandia, Grazie a te, Andrea. Hai già risposto. Non avevo dubbi della tua presenza. Particolare è stata colonia danese per lungo tempo, poi ho ottenuto una sorta di indipendenza completamente coperta dal ghiaccio, un insieme di popolazione in una densità quanto mai minima per ovviamente le condizioni di vita, una cultura che conosceremo a breve anche grazie a questa giovane scrittrice, ma già affermatissima in Groenlandia, definita dal New Yorker l'inaspettata stella letteraria groenlandese. Il libro si chiama La Valle dei Fiori, l'ho letto nel weekend, a me è piaciuto tantissimo. Come ben sapete, la linea è di portare unicamente lavori, a volte certo può capitare anche che insomma non ci sia a disposizione qualcosa che colpisca in maniera particolare. Vi posso dire che La Valle dei Fiori della groenlandese Niviaq Corneliussen a me è piaciuto tantissimo. La colonna sonora non è proprio groenlandese, anche se ho voluto mantenermi molto a nord, e dall'Islanda, ma a che fare anche con l'Italia, perché lei è Emiliana Torrini in una raccolta di remix quanto mai esoterica, già dalla copertina di questo disco si fa fatica un po' ad avere dati precisi per quanto riguarda, a parte Emiliana Torrini, chi ha portato il lavoro di remix di questi brani. Beh, io propongo il primo, la Label, che prenderemo oggi come colonna sonora, così diamo una continuità anche con altri suoni. È la prestigiosa Fat Cat Record. From the oceans to the sky, questo è un lavoro di remix, quindi la presenza delle elettroniche è molto incisiva, ma musicalmente parlando io preferisco Emiliana Torrini per dire a Björk, ecco, ma artisticamente è chiaro che Björk è un artista tutto tondo, è un altro carisma, un altro aspetto. Ciò non toglie che musicalmente parlando per me Emiliana Torrini è un grandissimo, è una grande realtà, è alla composizione con una voce molto particolare che ricorda l'altra stella islandese. Di origine italiana, papà italiano, come si può ben dedurre dal nome Emiliana Torrini. Molto a nord, siamo in Groenlandia e siamo nella parte orientale della Groenlandia, dove vi è questa Valle dei Fiori. Sono fiori di plastica, ma come? Lì voglio vedere dei fiori. Una protagonista che vive a Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. Lei è la tipica ragazza che ispira subito simpatia, pure troppa, se non fosse che poi arrivano i problemi, perché queste alternative scandinave molto avanti, risultati eccezionali a scuola, insomma, le va tutto bene a questa ragazza. Ma è possibile? Beh, non è esattamente così, e lì arriva subito il motivo di dialogo con la protagonista. Lei ha un futuro che la attende in Danimarca. Ricordo la storia Danimarca, Groenlandia, l'aspetto coloniale, insomma, e quant'altro. In Danimarca lei sta per iniziare l'università e soprattutto in Danimarca la attende la ragazza di cui lei è innamorata. Una bellissima storia d'amore, quindi l'aspetta il suo amore in Danimarca. Lei finalmente riesce ad andarsene, non dico da un territorio ostile, anzi per lei non sarà un territorio esattamente ostile, tutt'altro, lo vedremo nel percorso di presentazione, anzi avrà modo di accogliere quelle che sono le problematiche che questa ragazza inizia a vivere, inizia ad avere. Lei comincia ad avere problemi col suo corpo, si sente troppo grossa, troppo scura, troppo diversa dai compagni di studio, e mentre tutti invece i suoi amici anche a casa credono nel suo futuro perché sta spiccando come un inizio, come un volo verso la desiderata libertà, lei in tutta risposta davanti a tutto ciò, ed è comprensibile ed è raccontato divinamente, una micro sensazione che purtroppo ho conosciuto di un inizio di depressione, nonostante tutto abbia una svolta che pare sia positiva, soprattutto per quanto riguarda i progetti futuri. Lei sprofonda in questo disagio che ha sempre avvertito, ha sempre avuto come grande sensibilità, che è quel senso, come possiamo descriverlo, di inadeguatezza, una voluta ma vertiginosa solitudine, un bisogno molto forte di un amore che la sappia comprendere, unito a una paura poi di deludere questo grande amore, famoso per un uomo, il famoso e la famosa maledetta ansia da prestazione, e finisce male per gli altri quanto a se stessa, finisce per danneggiare gli altri, ma soprattutto inizia a danneggiare se stessa. Questa è la partenza che ho cercato di riassumere del lavoro La Valle dei Fiori, che conosceremo a breve, come vi ho detto, intervallo con un po' di musica della Fat Cat Record, la presentazione del lavoro di Niviak Corneliusen per Iperborea. Transient Waves Paradise è il brano che vi propongo, e si torna in diretta tra pochissimo per conoscere questa Valle dei Fiori. distese di ghiaccio veramente a perdita d'occhio, ho scelto questo brano con qualche leggero rintocco di voce per descrivere quella che è una Valle dei Fiori dove tra poco andremo. Cosa ha messo in evidenza la Valle dei Fiori come micro ma anche macro sensazione? Intanto che è più facile trovare l'amore che la felicità, e su questo, insomma, che è l'aspetto tra l'altro sotteso anche di un pensiero, ma del lavoro, la felicità, che parola è la felicità, basterebbe trovare la serenità che anticipi una consapevolezza di felicità. Beh, molte volte la felicità non ne abbiamo di consapevolezza, perché la vera e pura felicità è appunto contraddistinta dal non saperlo. La possiamo ricercare voltandoci indietro, più avanti, perché questo aspetto veramente paradisiaco vi è quando non lo sappiamo. Siamo veramente felici quando non sappiamo di esserlo, perché quando c'è una certa coscienza su questo, inevitabilmente partono disagi, paure, senso di inadeguatezza per quanto riguarda le ansie di prestazione e quant'altro. E come scrive il mio direttore, grazie Alessandro, c'è del marcio in Danimarca, grazie per la citazione shakespeariana. A Simona piace molto la playlist, quindi grazie a te Simona, e una buona giornata, una buona lettura anche. Ma torniamo alla nostra protagonista e a questa fantomatica Valle dei Fiori, un po' un polesine di ghiaccio, no? Questo malessere di cui vi ho dato descrizione, lei fin da bambina accusava, pur non avendone una concreta sensazione di questi aspetti, la portava a nascondersi sul Monte Corvo, nella tana di uno spirito della montagna che prende il sopravvento quando un lutto la conduce nella natura maestosa di una terra così come la Groenlandia, unica, la parte orientale, fino a una valle di fiori di plastica piena di croci anonime e dimenticate. Sapete, beh, ovvio che è un deposito della memoria. Così finiscono i tanti giovani Inuit, questa popolazione che un po' è dispersa nelle terre particolarmente e ovviamente coperte dai ghiacci, e questi giovani che si sentono con la realtà di senso di disagio finiscono dimenticati, finiscono dispersi e arrivano a togliersi la vita nel silenzio, nella difficoltà, in un sistema che li ha isolati e in uno stato di dolore delle loro famiglie, che hanno come un tabù di cui nessuno vuole parlare, e questa viene definita la Valle dei Fiori. Cronaca di un tracollo di una ragazza con la vita veramente spianata davanti a sé. Ricordate, no, tutte le belle parole che ho dato nell'incipit della recensione. E con grande schiettezza però porta la scrittrice questo racconto che mette in evidenza il disagio esistenziale della protagonista. Non manca anche l'aspetto della storicità tra Groenlandia e Danimarca e tutte le problematiche che porta l'Occidente globalizzato. E non manca un altro aspetto che è fondamentale, che ho omesso ma non dimentico: Niviaq Korneliussen, nel valore aggiunto della sua scrittura, ha anche una capacità ironica e sarcastica veramente brillante, che completa il prisma di colori come riflessi su questa distesa di ghiaccio che portano le parole del lavoro, la Valle dei Fiori, che a me è piaciuto tantissimo. Lo metto in palio per voi. Ascoltiamo ancora un minuto di questo brano a proposito di post rock e della Fat Cat Record. Ah, la Fat Cat Record è quella che ha dato il via alla carriera dei Sigur Rós, che per me hanno fatto un disco bello, il primo, poi insomma ho anche i Mum, che preferisco, insomma penso di aver portato qualcosa dei Mum, anzi dopo lo cerco e lo propongo, prima di lasciarvi il tempo per rispondere al quiz geografico. Ascoltiamo allora il termine del brano degli Him, preparo il brano dei Mum, nel frattempo enuncerò il quesito per avere La Valle dei Fiori di Niviaq Korneliussen, libro della settimana, assolutamente libro della settimana. Mia passione, dicevano quando poi prendevo, era l'unica materia dove prendevo dei bei voti, no? Dicevano: dai, tranquillo, tanto la geografia è la materia degli asini. Ecco, si conferma, perché ho una grandissima passione per la geografia. La Groenlandia ha un primato nel globo, ha un primato assoluto, non la distesa del ghiaccio, quanto ghiaccio c'è e la popolazione Inuit, no, è proprio un primato geofisico. Attenzione, non sto parlando di geopolitica, quindi geografia politica e geografia fisica la conoscete, no, la differenza, è proprio un primato di geografia fisica, è un primato nel globo, lei ha un'unicità e in questo aspetto lei è la prima. Se voi mi dite che caratteristica ha la Groenlandia che la rende prima nel mondo, io vi regalo La Valle dei Fiori di Niviaq Korneliussen. E vi ho promesso i Mum, ve li mando, eccoli qua, Green Grass of Tunnel, a tra poco. questo è un prodotto della Fat Cat Record, tra il noise, il cantautorale, l'elettronica, altri suoni andato avanti fino ad arrivare alla rubrica del voltiamo pagina. Sono arrivate le risposte, tra un po' darò il podio. Lei è Doreen Murail e questo lavoro, come ho detto, ci accompagna sul Monte Corvo dopo il senso di inadeguatezza della protagonista con una vita già spianata, un viaggio che la vede con progetti futuri di studi che sono molto molto importanti in Danimarca, dove raggiunge il suo amore. E quindi che problemi ci sono? I problemi ci sono, e come, è proprio in questi aspetti che vengono fuori tutte le problematiche, tutte le contraddizioni, e quindi la fuga per ritrovare se stessa nella Valle dei Fiori, a parlare con lo spirito della montagna nella Groenlandia orientale, in questo posto dove le anime di giovani ragazzi inuit colpiti dalla depressione vengono appunto ricordati con un senso di fallimento da parte delle loro famiglie, perché non si sono sentite all'altezza per poterli aiutare con questa distesa di Valle di Fiori e questa distesa di croci anonime, proprio appunto per lasciarli nel senso dell'oblio. La protagonista riuscirà nei suoi percorsi? Beh, ovviamente questo è nella lettura e nella narrazione di Niviaq Corneliussen, già riconosciuta come grande talento non solo per la letteratura groenlandese, per il New Yorker, una vera new sensation. E con la musica noi continuiamo, perché sto cercando di dare ordine un po' a tutti i messaggi. Intanto il primo, ovviamente il super campione che rinuncia al premio, e sì, esattamente, la Groenlandia ha questo primato. Aspetto a dare la risposta comunque. Intanto Emiliana Torrini ritorna. Quando è che siamo felici veramente? Quando non sappiamo di esserlo, oppure quando, dopo aver trascorso questo periodo, ci voltiamo indietro, e allora sì che abbiamo la consapevolezza. E tante sono le sensazioni che riporta questo lavoro. Ogni tanto faccio delle divagazioni, a me è piaciuto tantissimo, Anche Sergio, che saluto, che scrive praticamente, e lo ringrazio, un ulteriore romanzo. Credo che la Groenlandia appunto è a questo primato, è risposta esatta. E comunque non devo vincere io, anche se fosse la risposta giusta. Sono un perdente di professione e soprattutto un finto umile, quello è sicuro. In ogni modo è troppo grande per trovare posto in Polesine. Il Polesine è perfetto già così. Condivido anche quest'ultima parte di ironico messaggio. Grazie Sergio, la tua risposta è giusta. Poi c'è l'SMS di Gianfranco. Grazie Gianfranco, e sicuramente anche la tua risposta è esatta, ma non è un quiz sulla meteorologia, e sicuramente, adesso non ho fatto ricerche, la Groenlandia ha il primato delle precipitazioni, può essere, anzi ne sono certo che tu abbia dato una risposta giustissima. La Groenlandia, la risposta per quanto riguarda la geografia fisica, la Groenlandia è l'isola più grande del mondo. Questa è la risposta esatta. Comunque ciò non toglie che dal punto di vista della meteorologia hai sicuramente dato una risposta esatta, una risposta un po' fuori tema, ecco. Però grazie per aver giocato con il voltiamo pagina e con i 103.1. risposta: la Groenlandia è l'isola più grande del mondo, è l'isola più grande del globo. Che stiamo ascoltando e che sfumo subito perché mi rendo conto, però una colonna sonora che ho cercato di dare alla Valle dei Fiori comprende anche queste sonorità. Non consiglio la lettura con l'accompagnamento musicale, però pensando magari a certe parole e certe riflessioni, la colonna sonora che più mi è venuta in mente è quella che state ascoltando. Ritornano anche gli Im nella nostra playlist. Andrea, tu hai rinunciato giustamente con grande sportività e hai già un libro per il weekend, quindi accolgo il tuo decubertiniano se vinco passo, grazie comunque, risposta esatta, la Groenlandia è l'isola più grande del mondo. E poi direi di consegnare a Sergio questo bellissimo, secondo me, lavoro con la risposta appunto esatta e non solo, con la postilla finale sulla felicità. Dante, dice il produttore dell'olio, perché lui deve sempre aggiungere queste, tanto ormai è quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, quinto canto dell'inferno. Grazie finto umile, grazie Sergio. Voltiamo pagina di oggi, grazie per l'attenzione, grazie per aver giocato con la rubrica letteraria dei 103.1 sulla paginetta Facebook del Breakfast Club Fujiko. Troverete la possibilità di riascoltare e, perché no, per appassionate e appassionati, anche questa strana e particolare playlist dove ho voluto aggiungere della noise music, dell'elettronica, dell'ambient, insomma più tipica per la rubrica altri suoni. Però insomma direi che come colonna sonora per il lavoro di Nidiak Corneliusen ci può stare. Le edizioni sono Iperborea, il titolo è La Valle dei Fiori. Mm-hmm. pretend you can read my mind. Domani conosceremo uno scultore che è in mostra al Castello Estense a Ferrara. Probabilmente sarà l'ultima puntata della stagione della rubrica in mostra. Poi domani vi dirò perché. No need to be ashamed. No, don't be afraid. La regola d'arte in mostra, la rubrica del giovedì è domani, per oggi a breve Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ci sarà Nevio con Rock Live 10:30, 12:30. A me non resta che augurarvi un buon mercoledì, una buona giornata, un buon ascolto. A colazione vi aspetto alle ore 7 puntualissimi con il Breakfast Club domani e il caloroso abbraccio immancabile che arriva per congedarsi a voi dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. Every way I'm needing heaven to be with you. It's all the ways of wanting, pleasing, loving. In every way I'm needing heaven to be with you. Yeah.